Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Il governo è culo e camicia con l'industria delle telecomunicazioni fin dagli anni 40. Ha inquinato tutto. Può vedere il tuo conto in banca, i file del tuo computer, la tua email, ascoltare le tue telefonate. Mia moglie sono anni che lo sta dicendo. Tutti i cavi, tutte le frequenze. Più tecnologia adoperi e più è facile per loro controllarti. Huxley e Orwell avevano visto giusto. Ci siamo arrivati. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Voto Antonio. Dunque, a introdurre questa puntata abbiamo scelto un brano da Nemico Pubblico, film con Gene Hackman e Will Smith, che parlava appunto di questo controllo ossessivo del governo, della capacità appunto di controllare una singola persona fino in fondo. Parlava anche di questo, naturalmente. E dunque, il tema è proprio questo, perché Will Smith all'inizio del film sostanzialmente non gliene importa niente di questo fatto che il governo lo controlli, e molte risposte in realtà su questo tema sono su questo tono qua. Parliamo, naturalmente ci riferiamo a Prisma, appunto questo sistema di controllo da parte del governo americano sugli utenti tramite internet. Mi scrive su Twitter, l'account è Simone Spezia, Eligio Russo: sì, sono tra quelli che non temono che il governo mi controlli in rete. Cinzia Mangano: non credo che in questa epoca sia possibile sfuggire a controlli vari, perciò mi indigno ma non oppongo inutile resistenza. Di questo parleremo più avanti con il segretario generale del Garante per la Privacy. Gli chiederemo proprio: ma perché? Perché ci dobbiamo curare di questa cosa? Questo più avanti, ma prima c'è una pausa per la viabilità e poi ci ritroviamo come sempre con il punto settimanale di Stefano Folli. Sara Free, l'assicurazione auto che paghi in base ai chilometri che fai. Vi presenta Strade in diretta. Traffico verso le località di Villeggiatura, code da Modena Sud all'innesto con la 14 Bologna Borgo Panigale sull'Autosole e code in A22 all'innesto con l'Autosole. In A14 Adriatica sulla carreggiata verso Ancona praticamente si resta tratti in coda da Bologna Borgo Panigale fino a Rimini Nord. Le code in Veneto sulla 4 verso Brescia tra Montecchio e Montebello sono per lavori. Si resta in coda per immettersi sulla 10 Genova a Ventimiglia, sia sulla 26 dei trafori sia sulla 6 Torino-Savona. Ci sono code sulla 15 della Cisa tra Ulla e il Bivio per la 12 Genova-Livorno. Il traffico è a tratti fermo per un incidente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare di Roma tra la Roma Fiumicino e l'Ostiense. Noi torniamo tra mezz'ora. Italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. E sempre su Twitter Lidia Pandiani mi scrive, è una classica battuta che facciamo tutti quanti, chi se ne frega, da anni parenti, amici ed io salutiamo il maresciallo prima di cominciare a parlare, il maresciallo che si saluta, no? Il maresciallo che si sospetta che sia all'ascolto delle nostre telefonate. Bene, però adesso parliamo appunto di questa settimana politica, lo facciamo come sempre con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Buongiorno Stefano. Buongiorno Simone, buongiorno. Allora, nel commento che firmi oggi sul Sole 24 Ore ci lasci intravedere un po' di speranza, insomma. Forse questo passo lento del governo è dovuto al fatto che stanno cercando di calibrare bene gli interventi. Sì, questa è la versione ottimistica che ho cercato di incoraggiare. Però naturalmente bisogna vedere le cose nel loro insieme. Certamente la luna di miele di cui ha goduto Enrico Letta nelle prime settimane tende un po' a esaurirsi, questo è fisiologico. Certamente questioni come l'IVA, l'IMU sono delicate, ma soprattutto perché non possono essere risolte unicamente per via tecnica, cioè attraverso una ricerca certosina e pignola di questi 8 miliardi. Richiedono un accordo politico fra i partiti, perché soltanto i partiti possono invertire la rotta alla spesa pubblica che è stata per decenni. e i partiti sono il PD e il PDL. Adesso probabilmente ci sarà un accordo per rinviare l'aumento dell'IVA di qualche mese, e vabbè, questo è un accordo che va anche bene, se vogliamo, per non vederci aumentata l'IVA adesso a luglio, ma non è questo che si intende per grande patto politico. Una grande coalizione, diciamo, che avrebbe il dovere di fare qualcosa di più che un accordo di breve momento per un rinvio, deve trovare il modo di cambiare nella sostanza alcuni punti che sono quelli che hanno provocato l'aumento della spesa pubblica, dell'indebitamento, il blocco degli investimenti, insomma ci vuole un respiro, ci vuole una missione, ed è questo che Letta deve trovare, il respiro per avere un grande orizzonte. E chissà naturalmente se riuscirà a trovarlo. In questo momento si ragiona appunto sul rinvio dell'IVA, ci limitiamo a ricordare, come in parte abbiamo già fatto ieri in un paio di trasmissioni, che naturalmente un rinvio dell'IVA vuol dire un altro rinvio, e quindi probabilmente aggiungere incertezza fiscale ad incertezza fiscale, perché cioè, è stata rinviata l'IMU, è stata rinviata la TARES, probabilmente verrà rinviata l'IVA, vedremo che cosa succederà. Intanto oggi si prepara questo decreto del fare, insomma il nome non è stupendo a dire la verità, però insomma, potrebbe contenere già qualcosa di interessante, no Stefano? Ce lo auguriamo. Ci sono materie nel campo del lavoro, dell'occupazione, in cui si può, diciamo, della parziale riduzione di un fisco vessatorio, ci sono materie in cui si può intervenire modificando alcune tendenze negative in atto, e questo è già qualcosa, per il motivo per cui vogliamo incoraggiare Letta, lo incoraggiamo sempre. Resta il fatto, come dicevo, che una grande coalizione, un fatto eccezionale che unisce partiti fra loro nemici, avversari, beh insomma ci si attende che possa fare qualcosa di più proprio per l'eccezionalità della base parlamentare che la sostiene. Il decreto del fare o il rinvio dell'IMU o dell'IVA sono cose per le quali è sufficiente, diciamo, un governo ordinariamente efficace, insomma non c'è bisogno di una grande coalizione, non c'è bisogno di qualcosa di eccezionale, ci si aspetta qualcosa di più, vediamo, può darsi che di qui ai prossimi mesi si trovi il modo di avere quello shock, ecco, anche Bonanni, che non è un rivoluzionario, si augura uno shock sul piano economico, sociale, per le politiche di ripresa della crescita, insomma in effetti ci vuole uno shock. Ci vuole uno shock, e però molti sono attenti ad un altro tipo di shock, che tanto shock non è, nel senso sono cose alle quali sentiamo parlare da 20 anni e francamente non ne possiamo più, che sono le decisioni giudiziarie che riguardano Silvio Berlusconi, e alcuni legano insomma la durata di questo governo, la tenuta di questo governo, o quantomeno il fatto che prosegua un po' più seriamente o con più energia o piuttosto bivacchi, esattamente all'andamento delle vicende giudiziarie del Cavaliere. Posso dire, vedi, questa è la dimostrazione dell'anomalia italiana, si fa una grande coalizione, ma le si fa in un modo abbastanza svogliato e con delle riserve mentali, perché se, diciamo, la grande coalizione serve soltanto a creare una rete di protezione per i processi di Berlusconi, beh insomma questo ti fa capire quanto poco sia lo spessore politico che si vuole mettere in campo. Detto questo, speriamo che questi passaggi giudiziari trascorrano senza provocare terremoti, perché effettivamente la stabilità di una coalizione che magari non dà tutto quello che potrebbe dare, però la stabilità è un valore a cui non possiamo rinunciare in questo momento. Allora, ti voglio portare sullo psicodramma che sta vivendo in questo momento il Movimento 5 Stelle, uno psicodramma naturalmente che passa attraverso le dichiarazioni della senatrice Adele Gambaro, della quale appunto si deve decidere l'espulsione, che passa attraverso dichiarazioni che parlano di compravendita, in realtà ha scritto Riccardo Nuti sul suo status Facebook, dice compravendita morale e politica di deputati o senatori, che sinceramente non so esattamente che cosa voglia dire. Detto ciò, le tensioni che attraversano il movimento in questa fase mi sembrano piuttosto forti. Insomma, non so come dire, da sostanziali vincenti delle elezioni, come venivano dati all'inizio, si passa a stare all'opposizione per davvero, e questo forse pesa un po', no? È piuttosto complicato. Ma è un movimento carismatico che vive grazie alle intuizioni e alla capacità comunicativa di Beppe Grillo. Nasce come una setta sostanzialmente, no? Puri e intransigenti contro il mondo corrotto, contro la casta, le caste, eccetera, eccetera. Ecco, una setta di solito è una minoranza in cui gli adepti sono ben controllati dal capo, uno per uno. Quando diventa qualche cosa di diverso, e quando prendi il 25% alle elezioni sei per forza qualcosa di diverso, o sei una forza organizzata, e quindi una forza organizzata vuol dire anche capacità di filtrare i parlamentari, saperli scegliere, darsi degli organismi direttivi, elaborare una politica nelle sedi opportune, ma non puoi essere una setta con la mentalità della setta e avere il 25%, perché questo è una contraddizione in termini. Grillo vuole continuare, e c'è anche il diritto di farlo, voglio dire, non lo contesto, a esercitare una leadership assoluta tipica di un caposetta, però adesso è il 25%, ha riempito di suoi parlamentari la Camera e il Senato, è chiaro che non riesce a governarli, è chiaro che manca, diciamo, il luogo di elaborazione politica, di una politica che non sia soltanto la guerra permanente alle caste, perché per questo evidentemente non sono attrezzati a sufficienza, quindi rischiano di andare incontro a una serie di scissioni, di abbandoni, di rotture traumatiche, per poi tornare alle elezioni, e alle elezioni Grillo giocherà di nuovo la carta del suo carisma personale per cercare di riagguantare il maggior numero possibile di consensi, però poi la capacità di lavorare tutto questo sul piano politico, di farlo pesare nel governo del paese, per questo evidentemente non c'è questa possibilità, questa capacità. Allora Stefano, in chiusura di questo nostro collegamento ti voglio portare sui due componenti, no, di questa grande coalizione, ossia, o meglio, i due principali componenti di questa coalizione, ossia il Partito Democratico e il PDL, che cercano in qualche modo di riorganizzarsi. Il PDL, come al solito, con Berlusconi come motore che vorrebbe tornare a Forza Italia, il PD con il suo schema, ossia una serie di voci che iniziano a farsi sentire. Con Renzi, che non si è capito bene ancora che cosa vuole fare, nemmeno questa settimana, e Bersani che sembra quasi tornare in campo con un paio di interviste, come la vedi? Ma la vedo come tu l'hai descritta, una storia complicata, abbastanza pasticciata, che però deve trovare un punto di ricaduta entro l'anno. Non si può pensare che il partito che ancora adesso nei sondaggi è lì, insomma, è primo e secondo, che ha avuto un risultato positivo alle amministrative, molto positivo, al netto, diciamo, del tasso altissimo di astensionismo. Beh, insomma, questo partito entro l'anno deve darsi una struttura dirigenziale, deve darsi un leader, deve darsi un gruppo di dirigenti abbastanza in armonia fra loro. Però siamo in alto mare, perché certi nodi di fondo non vengono sciolti. Renzi è titubante perché non sa cosa trova nel Partito Democratico, non sa che tipo di rete di protezione gli possono stringere intorno, e a sua volta deve precisare molte cose sui contenuti della sua azione politica, che fino adesso non ha precisato. Quanto alla destra, beh, sai, Berlusconi torna sempre lì, siamo sempre, appunto, si rende conto che non può preparare le prossime elezioni di nuovo in campo come se niente fosse, 22 o 23 anni dopo la sua prima discesa, e cerca di ricostruire la magia iniziale, chiamiamola così, di Forza Italia, però con qualcun altro. Ecco, questo qualcun altro lui non sa individuarlo, anche perché è un uomo che riporta tutto a se stesso, no? Forza Italia è una grande espansione dell'ego di Berlusconi, è un'espansione di grande successo, ma adesso non è così facile trasferire questo egocentrismo e questa capacità, diciamo, di guida a qualcun altro, un personaggio che infatti non è stato mai identificato, perché forse non esiste, perché dovrebbe essere un Berlusconi giovane, un Berlusconi ai tante, che lo stesso Berlusconi di oggi non riesce a trovare. Grazie, grazie anche per questa settimana, Stefano Folli. Grazie, buona giornata, Stefano. Ciao, buona giornata, ciao. Noi ci risentiamo tra poco, parleremo di una ricerca sempre di Voices from the Blogs, l'osservatorio scientifico sui social media dell'Università Statale di Milano, che questa settimana ci parlerà di una ricerca sulle tasse, e poi parleremo di privacy. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Come si diceva, tra poco verremo al tema della privacy. La domanda che vi sto facendo, mi state rispondendo in tanti, sia su Twitter, sia sulla nostra, il mio account è Simone Spezia, sia sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/votaantonioR24. La domanda che vi stiamo facendo, ma perché interessa così poco alla fine questo tema della privacy? Gireremo, dopo la vicenda naturalmente di Prism, del controllo da parte degli Stati Uniti, del governo degli Stati Uniti in chiave antiterrorismo, sia di internet sia delle telefonate, parleremo di questo appunto col segretario generale del Garante della Privacy. Prima però il consueto appuntamento con Voices from the Blogs, che è l'osservatorio scientifico sui social media dell'Università Statale di Milano, e questa settimana ci occupiamo ancora una volta di economia. Giuseppe Porro, che insegna all'Università dell'Insubria e che fa parte del gruppo di Voices from the Blogs, buongiorno e bentornato naturalmente. Buongiorno a tutti. Allora, questa settimana parliamo di tasse ed è qualche anticipazione di una ricerca, un'anticipazione è uscita lunedì scorso per Affari e Finanza di Repubblica, Giuseppe. In realtà uscirà nei prossimi giorni. Uscirà nei prossimi giorni su Affari e Finanza di Repubblica, abbiamo qualche anticipazione. Allora, un quadro generale innanzitutto. Ma abbiamo svolto questa indagine in occasione del cosiddetto Tax Freedom Day, perché il 12 giugno, secondo i calcoli di Confesercenti, abbiamo smesso di lavorare per pagare le tasse, abbiamo cominciato a lavorare per noi stessi, e quindi abbiamo svolto un'indagine per capire che cosa la rete pensa dell'attuale carico fiscale. Chiaro che il 97% dei commenti sul carico fiscale corrente è costituito da commenti critici, fortemente critici anche. Il 20% circa sostiene che il carico fiscale è insostenibile, e così via per altri commenti, che genera recessione, che è ingiustificato in termini di qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Ma la cosa che colpisce è che la maggioranza relativa dei commenti, il 34,7%, dica che il carico fiscale non va ridotto, ma va redistribuito. Certo, anche questo commento è variamente interpretabile, è ambiguo in qualche modo, perché siamo tutti disposti a dire che il carico fiscale va bene così com'è, purché venga redistribuito in modo che io non debba pagarlo. Allora, veniamo alle singole imposte, no? Io partirei da questo, perché tanto stiamo discutendo dell'aumento dell'IVA, tanto si è discusso dell'IMU, no? Perché, come sapete, il Popolo della Libertà ci ha fatto una battaglia per l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, battaglia che sta ancora portando avanti adesso all'interno del governo. Ebbene, è l'IMU l'imposta più odiata? È proprio così? Sembra proprio di sì, sembra che l'imposta più citata in termini di detestati sia l'IMU, con il 36,3% dei commenti negativi ovviamente, e che le altre imposte di IRAP, l'IRPEF, l'IVA, la TARES o TARSU seguano a larga distanza, con percentuali che vanno dall'8,8% fino al 4,3%. C'è da dire che il 31,5% degli italiani comunque, quando parla in termini di imposte detestate, non fa distinzioni, quindi dice le odio tutte. Sì, ok, che è abbastanza, anche abbastanza comprensibile questo, insomma, sì. Naturalmente. E però, quasi a contrasto di tutto questo, quando si ragiona sull'aumento delle tasse, succede che proprio l'aumento delle tasse sulla casa è quello che si ritiene più utile in qualche misura, più... diciamo così. Se chiediamo alla rete su quali tasse bisognerebbe intervenire al ribasso per venire incontro allo sviluppo, per sostenere l'economia, come già appariva in nostre precedenti indagini che abbiamo presentato anche nella tua trasmissione, è il lavoro a vincere. Il 41,7% della rete dice abbassate prioritariamente le tasse sul lavoro. Quindi è la preoccupazione per la mancanza di lavoro, per il fatto che il lavoro costa troppo e quindi per il perdurare della crisi che induce verosimilmente questo tipo di pronunciamenti. Subito dopo le richieste di abbassamento delle imposte patrimoniali e anche sulla casa, 34,5%. Poi le richieste di abbassamento delle imposte sui consumi, che sono prevalentemente la richiesta di non aumentare l'IVA essenzialmente. Poche richieste esplicite di contenere le imposte sul reddito d'impresa, forse scarsa coscienza del fatto che contenere le imposte sul reddito d'impresa premia anche le possibilità di lavoro. Sì, poi magari alla fine si ricomprendono nelle tasse sul lavoro anche quelle sulle imprese, insomma, perché quando si parla di cuneo fiscale si parla di qualcosa, e contributivo si parla di qualcosa che è distribuito tra i due elementi. C'è una certa quota percentuale, il 25,2%, che pensa di aumentare le tasse appunto sulle rendite finanziarie, come si diceva, e qualcuno naturalmente anche sui consumi. Sì, qualcuno sui consumi, devo dire qui in termini selettivi, chi consiglia di aumentare le tasse sui consumi lo fa pensando ai consumi poco virtuosi, all'alcol, ai tabacchi, al gioco d'azzardo soprattutto. E anche le sigarette elettroniche ci sono? Direi proprio di sì, in questo 22,7%. Sono dentro anche le sigarette elettroniche. Veniamo ad una cosa che secondo me può far veramente discutere, perché è invece il dato che riguarda il giudizio sull'evasione fiscale. Beh, direte, no? Insomma, quando si parla di evasione fiscale, chi non è d'accordo che evadere il fisco è illegittimo? Beh, in realtà c'è una certa percentuale di persone piuttosto ampia che ritiene che evadere il fisco sia legittimo, almeno naturalmente dalle analisi che risultano dalla rete che troviamo su Twitter. Il 30% circa, il 29,9 per la precisione, ritiene che sia legittimo evadere il fisco perché lo Stato è sprecone, se non addirittura ladro, in qualche tweet. Mentre il 17,4% dice, beh, dipende, se il carico fiscale è eccessivo, se è male distribuito, se non tornano indietro servizi efficienti o di una qualche utilità, allora potrebbe essere giustificato non pagare le tasse. Con questi due dati noi arriviamo quasi al 50%, intorno al 48-47 qualcosa per cento sostanzialmente, è un dato che colpisce molto. Significa che solo il 52,7% degli italiani pensa che sia non legittimo e moralmente e in termini di solidarietà e di senso civico evadere il fisco. Ti faccio notare che nell'agosto scorso avevamo fatto un'indagine sullo stesso tema e i contrari sfioravano i tre quarti, erano il 73%. In qualche modo il dato, chiaro che la crisi ha inciso su questo dato, propensione a giustificare l'evasione fiscale, e fa pensare però il fatto che tiene alto il valore della illiceità stimata dell'evasione fiscale, la consapevolezza che in fondo chi paga le tasse le sta pagando anche per chi evade. Questo ce lo ha suggerito un tweet significativo, simpatico che abbiamo incontrato, che dice, è vero che il Tax Freedom Day arriva tardi in Italia, ma questo accade anche perché qualcuno ha deciso di celebrarselo da solo all'Epifania, che in qualche maniera è solo una battuta simpatica, sì, ma però, una consapevolezza che il carico fiscale si distribuisce in qualche modo. Grazie Giuseppe Porro di Voices from the Blogs, cercate il sito appunto www.voicesfromtheblogs.com dove trovate altri dettagli, poi questa ricerca, come si diceva, uscirà nei prossimi giorni su Affari e Finanza di Repubblica. Adesso appunto veniamo a parlare di privacy. Ah, insomma, chi è quell'idiota? L'idiota sta dicendo che vuole eliminare la privacy. Vuoi che ti controllino il telefono? Ma io non complotto per far sollevare il paese. Come faccio a saperlo se non mi fai sentire quello che dici al telefono? Ti devi solo fidare di me. Ah, ho capito. Spiamo soltanto i criminali. Non sospendiamo i diritti civili delle brave persone. Giusto. E chi decide se sei bravo o no? Devi farlo tu. Io dico che dovresti affrontare il problema più seriamente. Tesoro, tu lo affronti abbastanza seriamente per tutti e due e per mezza popolazione del quartiere. Ed eccoci dunque a parlare di privacy. La domanda che vi vogliamo fare oggi e che rivolgeremo tra poco ad un esperto, ad una persona che se ne occupa quotidianamente per lavoro, è questa. Insomma, sentiamo un po' di menefreghismo sulla questione della privacy, no? A molti non importa, alcuni ci scrivono sulla bacheca Facebook che lo ritengono importante, naturale, dice DJ Raff, è naturale, mi interessa e mi infastidisce, non ho nulla da nascondere, ma è mio diritto in quanto cittadino libero decidere di tenere nascosto nascosti alcuni ambiti della mia vita. Angelo Morelli, a me totalmente indifferente, così se devo mandare a quel paese qualche politico, naturalmente con dati di fatto sanno chi è che li manda a quel paese. Rosella Roselli, fin dai tempi più remoti ogni nostra azione è catalogata, registrata, adesso è solo più facile fregarsene, vuol dire liberarsene. E ancora Claudio Pettirosso dice: a mio parere più che menefreghismo sull'argomento c'è rassegnazione, personalmente per telefono, Facebook o altro non comunico dati riservati, paranoia con lo scherzetto di Obama non mi sembra. Giuseppe Busia, segretario generale del Garante della Privacy, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto a Voto Antonio. Dunque, io le voglio rivolgere proprio questa domanda: ma perché dovrebbe importarcene qualcosa che il governo ci controlli, se, come dicono molti, non abbiamo nulla da nascondere? Questa è una, diciamo, un sentire il governo come qualcosa di lontano, qualcuno mi controlla. È chiaro che qualunque informazione venga raccolta, se io so che le mie telefonate sono controllate, sarò meno libero nel parlare, perché prima cosa, il governo lontano in realtà non esiste, perché proprio internet provoca, ogni volta che si crea una banca dati si crea anche un rischio altissimo di violazioni di banche dati, e tante volte lo si è visto anche con le banche dati governative, un po' di questi dati magari finiscono online per ragioni casuali, perché c'è un attacco e via dicendo, ed ecco che il maresciallo di cui si parlava prima, che ascolta al telefono, in realtà magari molto vicino, o perché lui è vicino e quindi la catena delle notizie corre e arriva vicino a casa nostra, o perché magari finisce su internet. Ma anche se non accade questo, diciamo, se la banca dati rimane lì e chi la vede, cosa c'è, eccetera eccetera, e quindi le domande, ogni volta che io alzo il telefono so che qualcuno sa di me e cataloga e ricorda che io ho fatto una determinata telefonata, e anche col dato esteriore, ad esempio il solo dato di traffico, sapere che io chiamo frequentemente il numero o meno frequentemente, lo chiamo in orari d'ufficio o in orari diversi da quelli d'ufficio, le telefonate durano poco o molto, può dire moltissimo sulla relazione fra questi due numeri di telefono. Allora, io mi scusi Busia, però lo snodo al quale io volevo arrivare, che è quello che mi interessa veramente, è che questo, secondo me, non solo gli ascoltatori, ma tutti quanti, tutti noi che viviamo sulla rete, che viviamo con dei telefonini, questa cosa la sappiamo bene. Il punto è un altro, il ragionamento che viene fatto è, insomma, ma che mi deve importare se io non faccio attività illegali? Ma che mi deve importare se il governo traccia le mie email, che so, all'amante, tanto per fare un esempio? Ripeto, è un pezzo di libertà, perché noi siamo, la nostra identità, quello che siamo viene ricostruito da un soggetto diverso e non sappiamo con che criteri lo ricostruisce, come interpreta l'email all'amante, l'email a questo o a quell'altro. Non sappiamo se lo fa, in che misura lo fa, chi lo utilizzerà, se questo dato ritornerà presso di noi, perché non è un governo lontano, ripeto, è un governo che si avvicina in un click, perché basta un niente per cui questi dati ci ritornino e vadano ai vicini di casa, vadano al pubblico generale perché finiscono su internet per sbaglio, oppure ci ritornino come conseguenze. Noi abbiamo avuto tanti casi di persone che si sono viste fermare alla frontiera, perché? Perché c'era un'omonimia, e queste splendide banche dati governative magari non funzionano così bene e quindi volevano andare in vacanza e sono tornati indietro. Per dire la cosa più banale, ci sono stati casi di persone che non riuscivano ad aprire, questo con un riferimento a Schengen, una propria attività, perché erano finite con dati sbagliati, non controllati, che loro non sapevano esistessero, non sapevano esistesse una banca dati, ma chissà per quale ragione l'errore c'è stato, perché queste macchine sbagliano e catalogano tutto, ma poi lo aggregano in modi sbagliati, e quindi si sono visti bloccare in attività come appunto aprire un'impresa, andare in vacanza o via dicendo. Quindi ci sono tante storie di episodi spiacevoli, ci sono, e noi lo vediamo ogni anno, questa privacy lontana non mi interessa, non è vero, noi abbiamo tantissimi cittadini che si rivolgono non solo per questo evento che è venuto fuori, ma per i mille casi in cui si scopre che l'idea lontana, che la privacy sia lontana, diversa, e non ci arrivi perché tanto lo sa un signore che non incontrerò mai, non è vero, la privacy è molto vicina, e ogni volta che scopriamo che quei dati ritornano verso di noi capiamo che ci hanno preso un pezzo di libertà, un pezzo di noi stessi. Allora, voglio continuare a parlare con lei e capire anche per certi aspetti, insomma, quanto di quello che noi stiamo vedendo negli Stati Uniti, come dire, ha delle possibilità, aperte virgolette, di applicazione in Italia, cioè se questo in Italia avviene almeno in parte, se quello che abbiamo visto negli Stati Uniti avviene almeno in parte. E poi voglio parlare con lei anche di un altro argomento che abbiamo trattato spesso in questa trasmissione e sul quale è tornato il garante Soro durante la sua relazione annuale al Parlamento, che è la questione della violenza in rete. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Ho visto bene il minutaggio che abbiamo e chiudiamo tra poco, non so se riusciremo a parlare anche di violenza in rete, ma insomma ne abbiamo parlato tantissime volte. Adesso vediamo, intanto voglio leggere qualche vostro messaggio che mi è arrivato su Twitter, l'account è Simone Spezia, se volete. Ci scrive Alessandro Orlandi, la privacy viene trattata solo in maniera burocratica e repressiva, spesso con metodologie obsolete o impossibili. Ci scrive Giuda la Torre, perché non interessa, perché complica la vita nelle piccole cose mentre in quelle importanti non esiste. Sante Cavalleri, perché le persone normali hanno problemi più urgenti. Roll Cage, perché le priorità sono altre. Infine Confucio, indottrinati dalla retorica della Santa Inquisizione fiscale, dalla decennale sudditanza a leggi idiote, c'è forse da stupirsi che non ci interessi il tema della privacy. La questione del controllo, dunque, Busia, la questione del controllo in Italia. C'è qualcosa di simile a quello che avviene negli Stati Uniti o i rischi che avvenga qualcosa di simile, leggi più o meno lasche da questo punto di vista? Beh, ove avvenisse in Italia sarebbe contro la legge, perché qui si tratta di raccogliere dati senza un presupposto, quindi persone che non sono né indagate né sospettate di nulla vengono sorvegliate di per sé e quindi sarebbe per questo illegittimo e però necessario, e noi abbiamo una carenza in Italia, è previsto che ci sia una elencazione che debba essere fatta, un'elencazione delle banche dati che vengono usate a fini di polizia. Noi la stiamo aspettando e sollecitando da anni e questa elencazione non è ancora fatta, per cui noi non sappiamo quali sono le banche dati stabili create per fini di sicurezza. Però ecco, sull'idea la privacy è lontana, non mi interessa, è burocrazia, non è affatto vero. Dico un esempio banale, noi mettiamo sempre di più, perché è bello condividere con gli amici magari la foto di una festa in cui si è alzato un po' il gomito, si appare un po' allegri. Noi abbiamo tanti casi di giovani che poi, quando vanno a presentare la domanda e mandano il curriculum per essere assunti, in realtà la prima cosa che ormai le persone che si occupano di reclutamento presso le aziende guardano il profilo Facebook, cercano su internet, frugano nei motori di ricerca e ritrovano quelle foto e magari, e abbiamo avuto tanti casi, uno si trova a non essere assunto perché non viene guardato il master, ma magari la foto di persone un po' allegre che festeggiano. Contesto diverso, luogo diverso, non voleva dire nulla, ma pesa. Quindi noi abbiamo tantissimi casi, abbiamo casi di discriminazione perché il dato banale lasciato da noi stessi tante volte sulla rete rimane, permane nonostante la nostra volontà, per cui la privacy si sente lontana finché non tocca a se stessi, e noi abbiamo avuto anche l'anno scorso 35.000 persone che a vario titolo si sono rivolte a noi. Perché? Perché molti di loro erano magari persone che pensavano è una cosa lontana da me, appunto, finché non tocca a se stessi. Ci porta qualche altro esempio? Ci diceva il caso del recruitment, ossia dell'assunzione, della ricerca di personale. C'è qualcos'altro? Accennava le discriminazioni, se non sbaglio? Ma ci sono discriminazioni perché, ecco, rimanendo sempre su Facebook, se non si mettono dati sulle proprie opinioni politiche, orientamenti sessuali, eccetera, ma si dice per esempio con gli i like, mi piace un film, mi piace una canzone, mi piace questo, ci sono degli algoritmi, c'è uno studio recente dell'Università di Cambridge che consentono comunque dall'88 al 96% di capire quali sono gli orientamenti religiosi, gli orientamenti politici, gli orientamenti sessuali, semplicemente dal fatto che si mettono insieme tutti gli like sugli articoli letti, sui film visti, sui dischi che piacciono, perché statisticamente una serie di persone che amano e dichiarano di gradire canzoni, film, varie cose, di fatto dichiarano la propria opinione, per cui noi veniamo profilati e questo lavoro che per esempio può essere fatto, non entro legittimamente o non legittimamente, ma concretamente viene fatto per selezionare il personale sul posto di lavoro, è qualcosa che pesa. E sono dati che noi abbiamo regalato con leggerezza, parlando con un signore che immaginavamo lontano e improvvisamente si presenta sotto casa. Allora, questo è un elemento interessante e però, Busia, io fatico a capire come uscire da tutto ciò, perché oggettivamente negli ultimi 5-10 anni il mondo da questo punto di vista è cambiato, non a caso, insomma, lei sta parlando in una trasmissione che si occupa essenzialmente di social media e politica, di social network e politica. Il mondo dei social da questo punto di vista ha cambiato molto e l'essenza dei social network è la condivisione. Questo apre delle straordinarie opportunità e, come diceva lei, anche dei rischi, per dirla in maniera molto banale. Però io non riesco a capire come se ne possa uscire da tutto questo, perché se la condivisione è l'essenza dei social network, la tensione alla propria privacy vuol dire non condivisione. Non è questo, è controllo di cosa ci vuol condividere. Ciò che noi vogliamo e che dobbiamo garantire non è andarsene o rifiutare questo mondo. Questo è un mondo bellissimo, ricco di opportunità per tutti, che toglie dall'isolamento, che dà grandi opportunità. Il problema è avere consapevolezza di quello che si fa, sapere che quando io do un "hey like", questo "hey like" peserà su di me, non solo perché mi ritornerà un banner pubblicitario che mi profila, ma magari perché, visto che voi vi occupate di politica, sappiamo appunto come che nella campagna ultima negli Stati Uniti ha pesato moltissimo la profilazione, il messaggio mirato. Io posso essere individuato, quel mio voto teoricamente segreto è molto meno segreto sulla base del fatto che ho messo in giro per condividere una serie di opinioni e quindi vengo profilato. Qualcuno lo sa e mi manda pubblicità elettorale, qualcuno magari lo sa e se non è d'accordo con me non mi assume. Questo è il rischio. Allora cosa si cerca di fare? La legislazione europea è una legislazione molto più stringente su questo profilo, perché noi lo consideriamo un diritto fondamentale, un diritto di libertà. Se io posso voler dire quali sono le mie opinioni politiche, quali sono le mie opinioni religiose, discuterne, ed è bellissimo che lo faccia, ma devo sapere di farlo. Se invece a qualcuno non lo voglio dire, devo avere la stessa libertà di non dirlo al mio datore di lavoro, di non dirlo al mio vicino di casa, di scegliere. Questa è la libertà che noi difendiamo, lo stiamo cercando di fare sul piano europeo innanzitutto, perché in sede stiamo per approvare un regolamento che si applicherà in modo uniforme in tutta Europa, e vogliamo che queste regole siano applicate anche dai grandi operatori, gli over the top, che stanno e sono stabiliti fuori dall'Unione Europea, ma trattano i nostri dati, perché è un pezzo di libertà che vogliamo che sia difeso per tutti i cittadini europei. La ringrazio, grazie a Giuseppe Busia, segretario generale del Garante della Privacy, per essere stato con noi, e prima o poi ci torneremo su questi temi perché sono interessanti. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto. Se volete ne possiamo continuare a discutere, mi trovate su Twitter Simone Spezzi, oppure c'è la pagina Facebook di Voto Antonio. Per chi ci sarà lunedì, ci risentiamo naturalmente lunedì con 9 in punto. Buona giornata a tutti.